Letture di Radio 24. Che senso ha scoprire che il fregio delle panatenaiche che decorava la cella del Partenone non veniva mai raggiunto dalla luce del sole? O che le statue dei presidenti americani scolpite sul Monte Rushmore misurano 18 metri? Nel suo libro Salto di Scala, grandezze, misure e biografie delle immagini, Ruggero Pierantoni, già biofisico, oggi docente di architettura, mescola arte e scienza, cercando di spiegare in quale modo ci si debba rapportare alle opere d'arte di misure non comuni. Obiettivo centrato, commenta Ermanno Bencivegna sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, dato che in questo libro Pierantoni ci ricorda che l'arte, prima che a contenuti ideali, è sensibile alla materia stessa. Verso l'inizio del suo libro, Salto di Scala, grandezze, misure, biografie delle immagini, Ruggero Pierantoni mette in contrasto il lavoro di due archeologhe. Eleanor Goralnik non solo misura le opere studiate, ma sottopone i dati dimensionali a una severa griglia che fa uso, come punto di riferimento, della donna ideale, un essere umano statistico che deriva la sua anatomia visibile da una vastissima banca dati basata su molte migliaia di misure, condotte su donne impiegate nella Wright-Patterson Air Force Base negli Stati Uniti. Sarah Morris guarda questo genere di analisi con orrore. L'archeologo dei nostri giorni si scopre in difficoltà di fronte alla poesia. Ha il permesso dei suoi colleghi di occuparsi solo di gente quantificata, anonima, occupanti di tombe corredate di bei grafici computerizzati. Il libro di Pierantoni è un tentativo, spesso riuscito, di trascendere questo contrasto, di mostrare la poesia e la politica espresse dai numeri, di raccogliere nella rete tutti i millimetri che rischiavano di andare perduti solo perché non li avevamo veduti per quello che poi erano. Parole. Con le parole si costruiscono frasi, domande e risposte. Cominciamo allora con una domanda. Un'opera d'arte è prodotta, si penserebbe, per essere vista. E difatti in vari musei possiamo ammirare frammenti di fregio delle Panatenaiche, opera di Fidia, che decorava la cella del Partenone per 160 metri, prima che nel 1687 il tempio fosse centrato da un cannone veneziano. Proviamo però a seguire il nostro autore mentre fa due conti. Il fregio corre a 10,60 metri da terra, coronando il muro che delimita lo spazio chiuso dominato all'interno dalla statua di Atena Parthenos. La conseguenza di questa posizione è che il fregio non viene mai raggiunto dalla luce solare diretta, anche perché, insiste Pierantoni, il Partenone ha il suo centro geometrico nel punto di coordinate geografiche 23 gradi 44 primi est e 33 gradi 58 primi nord. Quindi il lato esposto a nord non riceve mai la luce diretta e anche questo contributo viene a mancare, perlomeno su quel lato. I critici hanno spesso ignorato il fatto che il fregio doveva risultare sostanzialmente invisibile. Talvolta lo hanno notato senza commento, tal'altra hanno giudicato la cosa irrilevante. Per Pierantoni, invece, resta l'interrogativo profondo e un po' angoscioso di comprendere perché una civiltà all'apogeo del proprio potere, della propria storia, in quel momento assolutamente vittoriosa e solare, abbia affidato al buio di un controsoffitto il documento esemplare e definitivo della propria eternità. Adesso una risposta. Quella data da Guston Borglum, scultore per così dire americano del secolo scorso, alla presidentessa di un comitato sudista di signore che volevano un generale lì scolpito sulle pendici delle Black Hills. Cara signora, scolpire il generale lì a quel livello ridicolo di dimensioni sarebbe come appiccicare un francobollo sulla porta di una stalla. Se il popolo che si è autoattribuito un destino manifesto vuole lasciare il suo segno nella natura che ha assoggettato, il segno deve essere imponente come la natura stessa. Detto fatto, Borglum si arrampica sulla vetta del Monte Rushmore, in South Dakota, a 1889 metri sul livello del mare, e decide che quello è il suo posto nella storia. Inizia a trivellare nell'aprile 1927, sospeso a 396 metri di altezza, attaccato a un groviglio di funi e di cavi elettrici, e prosegue il lavoro fino alla morte per infarto nel 1941. L'opera sarà inaugurata dal figlio Lincoln qualche mese dopo, usando una tecnica inventata da lui stesso, che combina cariche di dinamite e martello pneumatico. Il risultato, stavolta, è delle dimensioni giuste. Busti di 4 presidenti alti 18 metri, che coprono un'area complessiva di oltre 5 km quadrati e che hanno messo in moto altri numeri significativi. Quasi $1 milione di quei tempi investiti nel progetto, così come gli ateniesi avevano investito 700 talenti d'argento, l'equivalente di una flotta di 230 triremi, nell'Atena Parthenos o come Suge, che resse l'abbazia di Saint-Denis dal 1122 al 1151, fu in grado di trovare 32,68 chili d'oro raffinato e altri chili di pietre preziose per realizzare una croce di 6 metri che adornasse la sua chiesa rinnovata. La grande arte è anche un fatto economico, non nel puro senso finanziario del termine. È un modo in cui una comunità decide di adoperare le sue risorse, di trarre senso dal suo lavoro. È difficile per Pierantoni rimanere vicino al suo obiettivo dichiarato. Una cultura e una curiosità onnivore lo distraggono con incessanti aneddoti, digressioni e riferimenti. E periodicamente deve ricordarsi di rispettare il titolo dato a questo libro. Ma in fondo il libro c'entra l'obiettivo. Ci ricorda che l'arte, qualunque altra cosa sia, è un'attività che modella la materia, sensibile quindi, prima ancora che a contenuti ideali, alla consistenza, alle dimensioni e al peso della materia. La sua poesia è scritta sulla tela o nella pietra e non la capiremo se non presteremo attenzione alla tela o alla pietra. E quella che avete ascoltato era la recensione a firma di Ermanno Bencivegna del libro di Ruggero Pierantoni Salto di Scala, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Di dove sei tu? Aveva chiesto Ponzio Pilato a Gesù durante l'interrogatorio. Il terzo libro di Papa Benedetto XVI sulla figura di Gesù di Nazaret parte proprio da questa domanda, prendendo poi in esame le varie risposte dei Vangeli al mistero dell'origine del Messia. La domanda circa il di dove di Gesù, quale domanda sulla sua intima origine, quindi sulla sua vera natura, emerge anche in altri punti decisivi del Vangelo di Giovanni ed è importante pure nei Vangeli sinottici. In Giovanni, come nei sinottici, essa sta sotto uno strano paradosso. Da un lato, contro Gesù e la sua pretesa di missione, parla il fatto che si è informati in modo preciso sulla sua origine. Non viene affatto dal cielo, dal Padre, di lassù, come egli asserisce. No, di lui non conosciamo il padre e la madre? Come può dunque dire «sono disceso dal cielo»? I sinottici riferiscono una discussione molto simile nella sinagoga di Nazaret, il paese di Gesù. Gesù aveva interpretato le parole della Sacra Scrittura non nel modo abituale, ma con un'autorità che oltrepassava i limiti di ogni interpretazione. Le aveva riferite a sé e alla sua missione. Gli ascoltatori, ben comprensibilmente, si spaventano di questo rapporto con la Scrittura, della pretesa di essere egli stesso l'intrinseco punto di riferimento e la chiave di interpretazione delle parole sacre. Lo spavento si trasforma in opposizione. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Si sa appunto benissimo chi è Gesù e di dove viene. È uno tra gli altri, è uno come noi. La sua pretesa non può che essere presunzione. Si aggiunge poi il fatto che Nazaret non era un luogo per il quale esisteva una tale promessa. Giovanni narra che Filippo dice a Natanaele: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret». La risposta di Natanaele è ben nota. Da Nazaret può venire qualcosa di buono? La normalità di Gesù, il lavoratore di provincia, non sembra celare alcun mistero. La sua provenienza lo rivela come uno uguale a tutti gli altri. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di Papa Benedetto XVI, L'infanzia di Gesù, Rizzoli, 178 pagine, 17 euro.